un carattere di solennità ufficiale, perché è, in modo pure e semplice dichiarato, vero, la sessione di inaugurazione del corso istituzionale di scienze religiose, no? Che di fatto ha già iniziato le lezioni nel mese di settembre, ma che, come è consuetudine, si riserva anche in una delle settimane successive di fare una prolusione vera e propria, come quella per cui qui siamo convocati. Si tratta dell'anno accademico nono del nostro istituto, del nostro corso, no? E se calcoliamo che si va alternando l'insegnamento, vero, in ciclo biennale, per cui il primo anno si attivano il corso primo e terzo, e invece l'anno 2 o gli anni pari i corsi secondo e quarto, siamo all'inizio del quinto, della quinta coppia, del quinto ciclo di questo corso. Dunque sono partecipi e vengono qui salutati per primi, vero, gli studenti che frequentano il corso primo e terzo di questo corso istituzionale, che sono quest'anno in tutto 51 ordinari più 46 per il terzo corso, ai quali si aggiungono 23 studenti uditori e si aggiungono pure ancora 58 studenti fuori corso, perché hanno completato la frequenza scolastica, ma perché stanno pur proseguendo la loro ricerca per arrivare alla presentazione della dissertazione necessaria per il conseguimento dei diplomi. Docenti sono quest'anno 39 in tutti, e anche a questi devo rivolgere in questa occasione il riconoscimento e il saluto cordiale. Con l'occasione ricordo l'unico emerito, per modo di dire, perché da noi l'emeritazione non scatta in modo così ferreo come da qualche altra parte, vero, il padre Giulio Bassetti Sani, tanto benemerito dell'insegnamento di islamismo in tutti questi anni trascorsi, che ha preso congedo per ragioni di salute ed è ritornato al suo convento in America. Lo abbiamo salutato caldamente e cordialmente in quest'aula nel mese di ottobre, ma credo che proprio pensando a lui e mandando a lui un cordiale pensiero in questa sera, vogliamo tutti riconoscere che anche solo un insegnamento come questo ha cambiato nell'ambiente trentino quel modo di pensare e di sentire che si aveva qui a proposito dell'Islam. In realtà è successo qualche cosa nell'azione silenziosa e continua di un insegnamento di questo genere. E qualche cosa di simile vorrei dire, anche se non è nella nostra consuetudine reclamizzare e propagare con grandi titoli ciò che cerchiamo di compiere, anche per quanto riguarda il rapporto della cultura cittadina con il mondo delle scienze religiose. Ritengo che in questi 9 anni è andato assumendo una modalità, un tipo diverso di contatto. Lascio che ognuno rifletta per conto suo in che senso questa maturazione è constatabile ed è progredita. Però direi che proprio il merito del nostro istituto a questo riguardo, e intendo dire in modo particolare dei docenti di questo corso istituzionale, credo che una volta all'anno, al tempo di Pasqua, convenga almeno ricordarlo. Ecco, naturalmente in questo contesto non posso fare a meno di menzionare l'azione assidua e paziente e intelligente del direttore del corso, il collega Don Renzo Zani, vero che con la sua solerzia ha garantito e sta garantendo l'esatto svolgimento. L'orologio della casa funziona, questa è la mia impressione. C'è un punto che forse si risolve perfino, che è quello delle aule scolastiche. Noi, pur di portare avanti questa attività, in tutti questi anni ci siamo adattati ad ogni soluzione possibile per quanto riguarda le aule scolastiche. Siamo andati trasmigrando da una casa all'altra, da aule quasi squalide ad aule più confortevoli, da aule fredde e ghiacciali ad aule surriscaldate. Vero, fino ad oggi non abbiamo ancora una sede propria come converrebbe per questa attività, ma sono in grado di annunciare che al più tardi col prossimo anno ci viene assicurata, e questa volta ad opera dell'Istituto Trentino di Cultura, che ha preso in affitto una serie, un piano praticamente di uno stabile in via Grazioli, in cui tre aule capaci con analoghi servizi, uffici di direzione e così via, stanno in via di allestimento e forse ancora prima della fine di questo anno scolastico ci verranno messe a disposizione. Ecco, detto questo, non ho altro che da fare che presentare l'oratore di questa serata, il padre Karl Neufeld, che non è nuovo per il nostro campo, come l'etimologia quasi vorrebbe suggerire, perché è molto vicino, collaboratore diretto, dal 1990 è membro attivo del nostro comitato scientifico, vero? Al quale presenzia e collabora in modo molto attivo. Non era il primo della serie, prima di lui un suo confratello, il padre Walter Kern, il suo predecessore sulla cattedra di teologia fondamentale alla facoltà teologica di Innsbruck, è stato fin dagli inizi del nostro istituto appunto membro del comitato scientifico, e con l'occasione veramente sento di dover esprimere al padre Neufeld, di inviare al padre Kern e di esprimere anche al gruppo di sacerdoti religiosi della Compagnia di Gesù di Innsbruck, alla casa professa della Silgas 6 accanto alla vecchia sede universitaria e alla chiesa universitaria di Innsbruck, ancora oggi servita dai padri gesuiti, vero, la più calda riconoscenza per l'attenzione, la fedeltà, la cura con cui essi ci sono sempre stati vicini, la discrezione immensa senza voler inserirsi più di quello che noi chiedevamo. Veramente abbiamo trovato in loro il primo grande appoggio dietro alle nostre spalle, vero, per quanto riguarda il sostegno, l'incremento dell'attività teologica e della riflessione teologica, che certamente non vuol rinchiudersi dentro i confini. Sappiamo anche che proprio il nostro istituto, anche se dal lato istituzionale in Italia è ben difficile poterlo evolvere in termini analoghi, ma il nostro istituto ambisce, in certo qual modo, a realizzare di fatto, nel contesto delle facoltà universitarie che ornano questa città e stanno crescendo rigogliosamente intorno a noi, di fare in modo che un punto di attenzione serio e sistematico per il mondo delle scienze religiose, che costituisca qui qualche cosa di analogo a quello che nel contesto delle facoltà universitarie di lingua tedesca pongono le facoltà di teologia, vero? È la nostra segreta ambizione, per cui nel padre Neufeld in particolare e nel legame con la facoltà teologica di Innsbruck, che direi anche chilometricamente è la più vicina, se noi non pensiamo troppo ai confini politici, è la facoltà teologica che a noi rimane più direttamente accessibile. Ecco, da questa parte abbiamo un aiuto prezioso e la stessa presenza del padre Neufeld in questa sera ce lo dimostra e ce lo ricorda. Ecco, il padre Neufeld è stato collaboratore con padre Rahner ed è tuttora cultore accurato e intelligente della sua memoria e del suo pensiero, in certo qual modo. È tra i primi che tengono in mano anche l'archivio personale e le sue indagini, vero? E che sente la responsabilità di tener vivo il pensiero di Karl Rahner nella teologia cattolica. Ecco, non mi attardo a citare la lista grandissima delle sue pubblicazioni, anche se all'apparenza ancora giovane e pieno di energie, ma ha una lista quanto mai rispettabile di studi pubblicati e io mi meraviglio veramente, resto ammirato e sorpreso veramente di vedere continuamente interventi suoi che seguono lo sviluppo delle scienze teologiche con grande attenzione. Talvolta mi dico, non so come faccia a poter seguire, e anche con interventi scritti, frequenti e molto degni di nota, vero, questo mondo di cose. Ecco, il titolo della relazione che egli oggi ci presenta, avete visto come suona, Missione e Universalità del Vangelo. Mi spiegava appena adesso che egli intende diffondersi sul compito che il teologo che professa teologia fondamentale, una volta si diceva apologetica, vero, perché si occupava più che altro di difendere la fede cattolica dal fronte che la nega, la posizione che oggi invece questo ha verso quei molti che non tanto combattono la fede cattolica oggi, ma così silenziosamente la abbandonano, non la trovano più degna d'attenzione. Questo mi ha comunicato, mi ha rivelato essere un po' il senso, lo scopo di questa relazione. Relazione che è stata da lui stesso redatta in lingua italiana, anche di questo lo ringraziamo in modo particolare, vero? Memore del periodo di soggiorno che ha avuto a Roma presso il Collegio Germanico, ma credo sia da registrare anche questo gesto di cortesia e di generosità che ha voluto fare verso di noi. Noi eravamo pronti a tradurre un testo tedesco e metterglielo a disposizione, ha voluto lui stesso redigere un testo italiano. Credo che anche questo è un fatto che ci dispone ad ascoltarlo e ringrazio fin d'ora, vero, della disponibilità. Vorrei ringraziare Monsignor Roger del suo invito e del suo saluto. E comincio subito. Missione e universalità del Vangelo. Cari colleghi, cari amici, una situazione molto significativa può aprire la strada della riflessione che stiamo iniziando. Si ricorda che in un certo momento il quarto evangelista ci racconta: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Pare che questo scambio sia pieno di allusioni alla realtà che la Chiesa vive oggi, almeno nel contesto europeo. E pare inoltre che il brano offra tutto ciò che è necessario per chiarire il compito e il metodo di una teologia fondamentale del nostro tempo. Una prima questione si pone qui riguardo all'accesso a Gesù e al suo messaggio. La gente che si tira indietro ha avuto un certo accesso. Sono gli ascoltatori della parola di Gesù che hanno anche approfittato del pane distribuito. Ma adesso essi vanno via. Il loro accesso sembra un approccio determinato dalle loro attese e dai loro desideri personali e privati, senza l'apertura a ciò che Gesù stesso ha in mente. Quando egli parla apertamente del senso della sua missione, avviene la crisi descritta. Si scopre una opposizione ed anzi una contraddizione. E assieme una reazione, essi lasciano Gesù. Ed egli non esclude neppure la possibilità che persino i dodici siano pronti a lasciarlo. Il problema del giusto accesso implica un compito essenziale per la teologia di oggi, e soprattutto per una teologia fondamentale in quanto finora non è stato esaminato in maniera sufficiente. Si pensa che l'accesso si intende da sé, che sia una realtà da non discutere, un presupposto evidente, in breve, qualcosa che avviene senza difficoltà. Ma tale impressione pare sempre più infondata, fragile. L'accesso al Vangelo oggi, l'accesso a Gesù, determina troppo l'andamento dell'aumento o della perdita di fede per lasciare libera e neutrale questa condizione. Molti si tirarono indietro perché fin dall'inizio il loro accesso non era quello giusto, ed oggi si deve tener conto del fatto che una civiltà impregnata di pubblicità come la nostra conosce molto bene il significato decisivo della disposizione e della preparazione, che non si trovano già date automaticamente. Deve inaugurarsi l'atteggiamento corrispondente tramite sforzi speciali. Un accesso giusto, con la speranza fondata di una comprensione vera, richiede un impegno e un chiarimento. È vero che l'uomo ha le sue questioni di esistenza, fa l'esperienza contingente di ogni giorno, si aspetta qualcosa di più grande e più profondo. Ma tutto questo oggi non spinge quasi automaticamente verso la religione, o in particolare verso la fede cristiana. Gesù e il suo Vangelo ci ricordano già che ci vogliono una preparazione cosciente e un'opera a volte molto impegnative e pesanti per aprire quell'accesso che conduce davvero al senso del Vangelo di Gesù. Spesso si imbocca una via che non si distingue molto da quella che apre il cammino verso una leggenda, un resoconto fantastico, un mito. Alla luce di una tale prospettiva, la conseguenza citata del quarto Vangelo non pare logica. Deve essere quindi la realtà massiccia di un Gesù vivente e di una proposta piena di realismo vitale che causano la delusione. Quando si propone quindi la nuova evangelizzazione nel mondo di oggi, si deve dire chiaramente anche qual è l'accesso adatto per arrivare a tale scopo. Si tratta senz'altro di un compito proprio della teologia fondamentale, la quale deve partire da una visione realistica della situazione attuale. E in questa situazione attuale pare che il Vangelo sia una cosa vecchia. Primo punto, il Vangelo vecchio. Se si vuole lanciare un prodotto sul mercato del nostro mondo, si preferisce offrirlo come nuovo. Sembra che mai prima si sia usato del termine nuovo così frequentemente. La tendenza potrebbe a fare del buon messaggio un nuovo messaggio, perché si sente l'esigenza di una nuova religiosità e una ricerca del nuovo è presente ovunque. Il fatto è comunque strano. La secolarizzazione, di cui si è parlato molto negli ultimi anni, è accresciuta da una nuova religiosità, cioè da una ricerca di culto e di mistica, di spiritismo e di strani comportamenti che significano una sfida difficilmente immaginabile solo poco tempo addietro. Ma la soddisfazione di quanti sperano che questa tendenza darebbe nuovo vigore al cristianesimo o alle chiese cristiane, pare senza fondamento. L'osservazione non conferma per niente una tale attesa. La parola chiave è New Age piuttosto che buona novella. La sfida si indirizza all'apologeta. Ma come concepire e realizzare un'apologetica nel contesto odierno? Si sa che l'apologetica tradizionale non ha avuto un vero successo presso quelli che attaccano, e si sa inoltre che lo spirito apologetico porta con sé certi pericoli specifici contro i quali la teologia non ha saputo difendersi sufficientemente. Soprattutto si è lasciato imporre all'attaccante il tema preciso della controversia, senza che il cristiano abbia visto se la verità messa in dubbio fosse proprio corrispondente alla sua fede. Questo potrebbe accadere anche col tema del nuovo nel nostro tempo, in quanto si suggerisce che il Vangelo sarebbe qualcosa di vecchio, di obsoleto, di superato, qualcosa da non offrire alla riflessione dell'uomo contemporaneo, all'uomo moderno. Diventa così difficile evitare un accento unilaterale sulla dimensione sempre attuale del messaggio di Cristo, cioè sul carattere del nuovo, del sempre adatto o in altre parole, sull'universalità temporale di questa parola. La pretesa di essere sempre adeguata ai tempi ha segnato essenzialmente ogni predicazione del Vangelo, ma non ci si deve dimenticare che tale carattere appartiene ad un insieme di elementi. Ogni accento esclusivo cambia il ruolo di tale punto. La novità poi non si manifesta sempre sotto lo stesso profilo, in quanto dipende anche dalle condizioni concrete di come in un certo tempo la novità vuole imporsi. Si tratta di un fattore relativo, anche se si osserva in rapporto alla legge e dai profeti del popolo di Israele, una rivendicazione di novità costitutiva che si esprime nel titolo Nuovo Testamento, distinto dal Vecchio Testamento. La novità, così sottolineata, implica una dimensione ulteriore in quanto si comprende nel senso assoluto ed escatologico, cioè definitivo, da non superare mai. Questa tendenza non è stata sempre ben compresa, neanche all'interno del cristianesimo, dove ci si è chiesti, di tempo in tempo, se non ci si dovesse aspettare qualcosa di ulteriormente nuovo, ad esempio nella concezione dell'abate Gioacchino da Fiore. La categoria del nuovo, se non vista nel senso del Vangelo stesso, comprende quindi una difficoltà speciale per l'evento di Gesù e del suo messaggio. Non è da evitare, perché la forma e la presentazione del fondamento cristiano non sono fisse, ma domandano sempre tradizione e traduzione nei contesti dati dal luogo e dal tempo di quelli che devono diventare i partner della comunicazione. C'è dunque una certa novità relativa richiesta dalla vitalità del Vangelo stesso nel suo scopo di raggiungere sempre più gli uomini nelle diverse zone e nelle diverse età del nostro mondo. Questa novità si mostra condizionata dalla situazione concreta in cui il Vangelo deve incarnarsi. Senza dubbio, noi sappiamo molto sulle condizioni del mondo e dell'uomo di oggi, molto più in ogni caso di ciò che si conosceva prima. In prima istanza, le cosiddette scienze umane hanno allargato il campo di informazione su queste condizioni. E dato che esse sono diventate temi di nuove discipline molto interessanti, l'attenzione si è concentrata su di esse. Buona parte della teologia cattolica dopo il Concilio Vaticano II concerne lo studio di queste condizioni. La storia, la società, la psicologia sono già aspetti classici, mentre l'informatica, la bioetica, eccetera, ci mettono di fronte alle sfide nuove. Lo sviluppo richiede un'attenzione speciale. Secondo punto, le scienze nuove. Se il Vangelo concerne l'uomo, tutto ciò che lo tocca ha anche significato per l'annuncio del messaggio oggi. Da questo punto di vista si capisce senz'altro lo sforzo intenso posto nell'elaborazione di tali condizioni. Tempo fa si studiava la filosofia, cioè l'essenza dell'essere umano, che rendeva superfluo lo sguardo troppo specializzato sui diversi campi, quali il mondo, la natura, la conoscenza ed il comportamento, la società, eccetera. Oggi questi fattori della realtà sono diventati punti di partenza di discipline intere delle cosiddette scienze umane, con la conseguenza della realizzazione di ricerche molto sviluppate, in modo che la considerazione filosofica generale non è più sufficiente per tener seriamente conto del peso e del significato di questi fattori. Molti sono convinti che la vera sfida del cristianesimo si trovi sul livello di una secolarizzazione delle condizioni, che perdono così il legame prima incontestato con la religione. Mentre la tendenza della secolarizzazione spirituale dissolve sempre più il nesso che permetteva prima l'accesso alla verità religiosa utilizzando i dati del linguaggio, dell'esperienza, della storia, eccetera. Una certa apologetica moderna tenta di salvaguardare ed anzi di dar più forza a tale nesso, scoprendo l'apertura necessaria di questa realtà verso una trascendenza. Non pare inevitabile qui il descrivere ancora una volta in dettaglio queste opzioni e i loro motivi. Finora non si vede come il tentativo cristiano abbia rovesciato in misura notevole la tendenza secolarizzante. Va però osservato che questa tendenza non si mostra di per sé in opposizione ad ogni religione. La demitizzazione, ad esempio, non ha causato la scomparsa totale dei miti. Sorgono contro miti, come si dice. Si parla persino di una rinascita religiosa negli ultimi tempi, ma questo fenomeno non giova alla fede cristiana. Si è già discusso questo fenomeno in cui tale nuova religiosità preferisce attitudini che non corrispondono alle grandi religioni o alla vita delle chiese tradizionali. Una ragione che non viene nominata consiste nel fatto che le religioni conosciute sono ritenute vecchie, fuori moda e più ancora non credibili perché si sono mostrate durante la loro storia in contraddizione con ciò che dicono. Un altro argomento suggerisce che queste religioni non tengono conto, anzi non possono tener conto della situazione nuova perché l'attualità sarebbe talmente nuova che soltanto una realtà del nostro tempo sarebbe in grado di comprendere la sfida lanciata. Anche questo punto esprime quindi un'incompatibilità tra modernità e un messaggio troppo vecchio, quello del cristianesimo, per poter rispondere coerentemente alla domanda di senso attualmente richiesta. Da quanto sin qui esposto deriva la necessità di esaminare il Vangelo stesso e soprattutto la sua pretesa di universalità di tempo e di luogo, cioè del suo carattere cattolico nel senso proprio di questo termine. Tocchiamo così al nocciolo della controversia tra modernità e cristianesimo. La risposta non può suonare semplicemente che è di per sé comprensibile il carattere universale del messaggio cristiano. Tale informazione lascerebbe aperto il vero compito, anche se nella discussione della teologia cattolica nell'ultima generazione si è posta generalmente come primaria la considerazione delle condizioni esterne. Si è parlato non soltanto della fede nella storia e nella società, ma anche nella psicologia e nella letteratura, nell'arte e nella politica, nella comunicazione, nel linguaggio e così via. Tutto questo si è sviluppato sotto il presupposto tacito che il messaggio cristiano sarebbe cosa evidente e indiscussa. Agendo così, si è creata l'impressione che il compito centrale del teologo di oggi si trovi nella considerazione dei problemi discussi nelle altre discipline. Questo non tocca il Vangelo stesso, che resta quasi fuori da un vero influsso, così come la verità cristiana entrerebbe soltanto in un rapporto esterno con la realtà del mondo. Ma l'essenza del messaggio ci lascia pensare che qui si scopre un'idea troppo semplice e superficiale che non rende conto di ciò che esiste davvero. soprattutto l'applicazione della verità dell'incarnazione a tutta la realtà cristiana, ha già sottolineato prima del Concilio Vaticano II un legame, in un certo senso anche interno, tra la rivelazione e le forme, cioè le realtà terrestri nelle quali si manifesta il rivelato. Questo significa anche che il vecchio ed il nuovo in questo rapporto non permettono una distribuzione secondo il modello delineato. Deve concepirsi altrimenti la relazione, e questo implica una valutazione propria che concerne il Vangelo e non soltanto le condizioni nuove della modernità e di ciò che si crede appartenere ad essa. Pare interessante che la gente del tempo di Gesù abbia lasciato il Signore perché la sua proposta suonava troppo nuova, mentre oggi si dice che sia troppo vecchia. In entrambi i casi si crede di non avere ragione seria per tener conto di ciò che è giudicato inadatto. E questo esprime inevitabilmente il giudizio di una parzialità, di un non valore, di mancanza di significato, cioè una distinzione in cui la posizione di Gesù allora e oggi si trova messa a livello di ciò che non merita attenzione. Si vede senz'altro che tale atteggiamento contraddice la pretesa del Vangelo e della fede. Ma che cosa significa una tale pretesa se essa non si capisce nel suo senso proprio? Un terzo punto, la giovinezza del messaggio cristiano. Il Concilio Vaticano II ha ricordato nella sua Costituzione dogmatica dei Verbum che l'intenzione dell'evento di Gesù Cristo non fu l'informazione su questa o quella verità particolare, ma la comunione con la persona di Dio che vuole autocomunicarsi. Tale offerta implica tutto ciò che può permettere quell'unione, ma in che modo si può rendere plausibile l'evento di Gesù ai contemporanei in questo senso? Nella Chiesa Cattolica si è dato inizio al movimento della cosiddetta nuova evangelizzazione, un'impresa che presuppone l'analisi della situazione nel senso di un bisogno su questa linea, cioè la scoperta di una mancanza in una società di tradizione cristiana, con lacune e perdite che non si lasciano riempire coi soli mezzi ordinari di una vita secondo il Vangelo, ad esempio. Sarebbe necessario, mi pare, approfondire ancora la ricerca su questo fenomeno per capire meglio cosa potrebbe e dovrebbe essere una nuova evangelizzazione. Ma in ogni caso, un fedele convinto e un teologo avvertito non possono accettare la tesi che il Vangelo sarebbe fuori corso, perché troppo vecchio, cioè legato ad un certo tempo e forse anche ad un certo luogo del mondo. La prova della tesi esige un po' attenzione, perché il cristianesimo come realtà incarnata conosce degli elementi circa i tempi e i luoghi, cioè dei fattori sottoposti allo sviluppo storico e geografico. Non tutto è da difendere come se fosse al di sopra del momento e delle condizioni locali. Chi vuol far vedere la giovinezza del Vangelo oggi non può risparmiarsi discernimento e una decisione, un compito abbastanza pesante per molti. L'ora attuale mira piuttosto alla comprensione, alla pace, all'armonia, all'unità. La tendenza in vigore non ama l'elemento esclusivo e la presa di posizione chiara, nel senso che ci sia qualcosa da lasciare, da evitare, da chiedere, da domandare, eccetera. Il compromesso si dimostra essere la possibilità preferita, in modo che la necessità di un giudizio distinto non trova molta disponibilità. Non di meno, la vita cristiana richiede anche oggi la distinzione come fattore inevitabile. E mi pare che tale esigenza sia un indicatore di giovinezza del Vangelo, cioè un segno del suo significato anche per il mondo del nostro tempo. Non si lascia semplicemente integrare nella mentalità dominante. La sua resistenza si fa sentire quando impone così un atteggiamento non molto desiderato. Si tratta qui di un elemento che sotto il nome di forza critica gode di una stima molto grande. E tale forza critica è inerente al Vangelo stesso fino ad oggi. Il problema sta nel fatto di far valere questa forza critica nell'ambito della spiritualità generale. Un secondo elemento di giovinezza del Vangelo ancora più importante si scopre nella direzione e nell'orientamento, non soltanto della vita cristiana come tale, ma anche della vita pubblica e sociale, cioè nella sua forza determinante riguardo alla comunità degli uomini. Si sa che i diritti dell'uomo, formulati dalle Nazioni Unite, sono un risultato dell'immagine cristiana dell'uomo, anche se secolarizzati dall'illuminismo. L'indicazione non rende tutta la complessità dello sviluppo storico, ma questo non impedisce il fatto che la radice decisiva della base della civilizzazione di oggi si trovi nel cristianesimo e finalmente nel Vangelo del Signore. Forse si è dimenticato troppo facilmente questa forza di direzione e di orientamento, ma essa esiste e continua a produrre il suo effetto ovunque se ne apra un'occasione. Senza dubbio, ci resta ancora molto da fare per far riscoprire questa realtà e questa possibilità di servizio evangelico al mondo odierno. Questo implica, come dice Papa Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II, un aggiornamento, non in primo luogo della modernità, ma proprio della Chiesa e dell'annuncio del suo messaggio. Si creda alla giovinezza del Vangelo, ma si deve fare di tutto per far capire questa nuova giovinezza a chi neppure la suppone. Il Concilio ci ha lasciato in questo senso un'idea importante riguardo al Vangelo quando parla della gerarchia delle verità, della hierarchia veritatum, pensando alla lunga storia dello sviluppo del dogma che secondo gli attacchi dei tempi ha sottolineato molti punti. Non tutte le verità possiedono un peso uguale, ma alcuni osservatori giudicavano così i dogmi, esigendo un'attenzione uniforme per ogni dichiarazione di questo tipo, senza tener conto del contenuto concreto. Sotto questo profilo si deve cambiare la considerazione e la riflessione teologica secondo l'indicazione del Concilio. Un quarto punto, l'essenza del cristianesimo. Mi pare che il Vaticano II abbia introdotto nella meditazione della fede e nella riflessione teologica una decisa concentrazione. Appunto, questo fine ha provocato già il problema del giusto accesso, perché si vuole garantire la direzione del processo verso ciò che conta davvero nel messaggio. Dalle condizioni esterne al nucleo centrale, dalla molteplicità delle circostanze al cuore del Vangelo, dove risuona la parola. Il compito della teologia in genere e della teologia fondamentale in particolare, deve corrispondere a questa tendenza, benché con questo non si intende per niente dimenticare ora l'insieme del contesto, delle condizioni, delle circostanze. Piuttosto è vero il contrario, perché si vuole una considerazione di questi fattori alla luce del Vangelo e in chiaro orientamento adesso al suo punto centrale. Ma nello stesso momento il Concilio si mostra convinto che per l'aggiornamento della Chiesa oggi richiede in primo luogo una coscienza più profonda e più viva di ciò che caratterizza il Vangelo. La ricerca raggiunge così la questione dell'essenza del cristianesimo come punto di partenza di una gerarchia delle verità. Col ruolo rinnovato della Sacra Scrittura nella liturgia e nell'istruzione religiosa, si è ricordata soprattutto la vita di Gesù e il suo avvenimento come riferimento iniziale ed obbligatorio di ogni passo nella fede e nella sua riflessione. Questa centralità resta da sperimentare di nuovo. L'interpretazione nella dogmatica classica non sembra essere più sufficiente nel nostro tempo. Anche se non rimane l'occasione per sviluppare in dettaglio il tema, si vede già che in questa centralità si fonda anche la pretesa cattolica, cioè universale, di Gesù e la base della missione iniziata con lui. Rudolf Bultmann ha formulato un giorno la domanda: in che modo l'annunciatore del Vangelo diventa a sua volta contenuto dell'annuncio stesso? Wie wird der Verkündiger zum Verkündigten? Credo che qui ci sia una indicazione di come si può trovare la risposta alla difficoltà dell'uomo di oggi circa il cristianesimo inteso come formula di vita. Il tentativo non è nuovo. Si vede facilmente tutto il movimento teologico che sotto la parola della riduzione al mistero ha gettato la concentrazione indicata. Ma pare che le difficoltà del mondo e del tempo sono state sentite più decisive. Forse ha giocato anche l'impressione che la verità del Vangelo e le sue dimensioni siano conosciute, un'opinione che ha causato per gran parte questa situazione attuale in cui molti lasciano la fede e la Chiesa. Riconoscono volentieri che i cristiani fanno tutti gli sforzi immaginabili per corrispondere ai bisogni del momento, ma non vedono perché il cristianesimo sia necessario per un tale atteggiamento. Non si capisce il cuore, il nucleo, il centro dell'essere cristiano, che si rappresenta normalmente sotto le forme di un altro tempo. Soprattutto fa problema una certa separazione tra la vita attuale e quella promessa dalla fede. Non si sa più come il cristianesimo si inserisca davvero nell'esistenza attuale con un significato positivo anche per i problemi di oggi. La vita eterna pare spesso una consolazione senza contenuto, il messaggio si sente come un insieme di sole parole senza effetto vero, la prospettiva si offre dappertutto più promettente che nella Chiesa. In questo senso la risposta menzionata di Simone Pietro ha perso buona parte della sua logica, non pochi almeno lo credono. La discussione intorno alle religioni ci dà un segno di questo sviluppo. Si domanda: non è vero che tutte le religioni rendono un servizio prezioso agli uomini? Non è vero che la pretesa assoluta sia un attacco alla dignità di ciò che significa tale o tal'altra religione, per questo o per quello? Si denuncia per questa ragione non soltanto il cosiddetto esclusivismo religioso, ma anche l'inclusivismo, per sottolineare il pluralismo delle religioni. Non è possibile entrare adesso in questa discussione. Il fenomeno si registra soltanto come elemento di una tendenza alla quale la fede e la teologia devono tentare una risposta. Non si tratta di false pretese o di prerogative infondate di uomini che si credono più forti e più giusti di altri. Il centro del Vangelo deve farsi sentire con la sua forza specifica, cioè come punto di partenza di una missione attuale e con la sua forza di universalità. Dobbiamo ritornare alle radici proprie, ma in senso molto più profondo di ciò che ha guidato il rinnovamento teologico dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'erano allora ancora troppo i presupposti che si credeva fossero intelligibili. Karl Rahner ha parlato, verso la fine della sua vita, della mistagogia necessaria, cioè dell'introduzione pratica e pedagogica alla fede e alla sua riflessione per ritrovare queste forze di missione e di universalità che sono cercate, ma che per molti non sono più evidenti nel cristianesimo. Non mancano gli slogan per dare un nome all'impresa richiesta. Papa Giovanni XXIII ci ha parlato di aggiornamento, Papa Paolo VI di rinnovamento della Chiesa e Papa Giovanni Paolo II ci propone la nuova evangelizzazione. Gli accenti sono diversi, il compito resta lo stesso. Come rendere presente Gesù a questo mondo e a questo tempo? Una volta si prendeva il fatto del cristianesimo e della Chiesa come dato da non discutere. Era il presupposto per la fede personale e per la riflessione teologica, la base evidente dell'essere cristiano. Oggi ci si deve interrogare sulla presupposizione stessa, partendo dall'incontro con Gesù, cercandone il senso in maniera nuova. Così la gerarchia delle verità si sperimenta nella prassi e non si mostra da prima come difficoltà teoretica. E questo cambia anche la domanda dell'essenza del cristianesimo, che si considerava un tema di una formulazione letteraria invece di essere concepito come il primo passo pratico verso la vita cristiana cosciente di oggi. L'essenza del cristianesimo non è un possesso, una cosa da avere, ma l'indicazione di una ricerca da fare. La situazione attuale si distingue in questo modo profondamente dal momento della domanda di Gesù, forse anche voi volete andarvene. La decisione per un tale atteggiamento implica la concezione di una possibilità definitiva. Ma adesso si tratta di un cammino aperto nella comunità di Gesù. Far capire tale situazione e tale possibilità pare il primo dovere del fedele. Teologia perché? La risposta non può risparmiarsi la considerazione del nostro mondo e delle sue condizioni concrete, ma decisamente alla luce del Vangelo, che ci spinge ad una missione davvero universale e ci dà tutto ciò che è richiesto per corrispondere al compito. C'è quindi la speranza di non correre in vano, in quanto la presenza fraterna di Gesù si verifica proprio nell'attenzione alla realtà, nella distinzione del necessario dal contingente, del decisivo dal secondario e nel tentativo, di tenersi sulla linea giusta di questa vita. La riflessione teologica si dimostra in tale caso una parte del processo vitale dell'essere cristiano. Non è per niente una ideologia artificialmente aggiunta e in certo qual modo superflua riguardo a ciò che si vive. Questo tipo di riflessione sulla fede resta da scoprire, ma pare che sia la sola a convincere nell'ambiente dato. L'essere cristiano si presenta quindi come un invito, invito all'esperienza propria e concreta che fonda allo stesso momento un pensiero col significato reale. Viviamo un tempo di delusioni e qualche volta si fa sentire l'idea che tutto sia invano. Come evitare la disperazione? Abbiamo detto che il cristianesimo può offrire anche oggi la sua speranza. Ma questa speranza, per essere solida e seria, richiede fin dall'inizio uno sforzo. Quel primo passo che è fidarsi. E questo elemento fondamentale della mistagogia di cui si è parlato e che non conosce fine. L'invito e la missione in comunità. Questa potrebbe essere la prospettiva della possibilità positiva e con ciò ci avviamo alla conclusione delle nostre considerazioni sul ruolo del Vangelo oggi. C'è di più, senza dubbio. Ma questo sembra già molto, quando non si trova niente da cui fidarsi. La crisi attuale porta molto lontano, non permette pertanto una visione soltanto scettica e senza uscita. Il cammino del Vangelo si offre sempre di nuovo e da parte sua non blocca le sfide e i problemi del nostro tempo. Il contrario si sperimenta dappertutto dove si entra in questa direzione proposta. Nessuno ha promesso che sia un cammino comodo o facile, ma è quello che conduce a questo punto finale e che darà senso anche alla nostra esistenza. E in questo senso riceve senso nuovo la parola di Simone Pietro, Signore, da chi andremo, tu hai parole di vita eterna. Ringraziovi della vostra attenzione. Grazie ancora a nome di tutti noi di questa che è stata non solo una lezione, ma una meditazione. Credo che da un lato ci è stata data la sensazione della portata di riflessioni, vero, che investono tutta la capacità di riflessione in Europa, perlomeno nell'Occidente oggi. Vero è che i teologi odierni veramente si sforzano di seguire. Dall'altro canto però è stata anche presentata in una elementarietà, anche in una grazia di formulazioni, alcune formulazioni che ha detto mi sembrano veramente felici, questa che è anche da parte nostra, da parte del nostro istituto, è direi un'incombenza che fin dai primi anni è affiorata quasi senza volerlo, cioè l'impegno a cercare di capire l'universo umano entro il quale noi stiamo ragionando e vivendo. L'abbiamo agganciato al nome di Romano Guardini, questo sforzo abbiamo appreso anche proprio da lui, ma mi pare che anche senza pensarci uno è portato a doverlo affrontare. Il nocciolo del discorso qui presentato, mi immagino che soprattutto per quelli che affrontano un insegnamento di religione nelle scuole, Ecco, se non si fermano a un piano puramente nazionale, ma aprono gli occhi per quello che si muove nel cuore degli uomini e nel contesto culturale in cui viviamo, è inevitabile, è inevitabile. E adesso certamente qui sarebbe bello poterci ragionare sopra un giorno intero a sminuzzare e applicare, vero, a caso nostro queste riflessioni. Ho trovato particolarmente felice la indicazione che dice che l'essenza del cristianesimo non è un possesso, ma è l'indicazione di una ricerca da fare, di una ricerca da fare. Proprio a riguardo del nostro istituto vi confido che questa parola ricerca, ricerca da fare, ricerca nella quale tutti siamo impegnati, nella condizione in cui ci troviamo e nella posizione anche intellettuale che copriamo, ecco, ci viene imposta anche istituzionalmente. Il nostro si chiama, anche davanti al Consiglio Provinciale e davanti alla pubblicità del nostro mondo, è un istituto di ricerca. È un istituto di ricerca. Lo si vuole inverare questo ideale? Certamente la nostra ricerca non è fatta come quella degli istituti di ricerca scientifica, atomica e così via, vero? Però qui mi pare che possiamo pienamente collegare le finalità istituzionali del nostro istituto anche quando questa ricerca può essere umile, può essere tenue, può essere insomma, non tale da inventare dei brevetti, però ricerca è quello che stiamo facendo tutti noi e che state facendo anche voi nel complesso degli studi e nel complesso delle attività che state muovendo per elaborare una prima dissertazione, una prima riflessione formulata e così via. Ecco, allora ancora grazie dell'incoraggiamento e in certo qual modo anche della indicazione che ci conforta in questa attività. Certamente mi è ritornato alla mente il titolo di quel libro di Eugen Bieser che mi impressiona continuamente, vero, che parla della Glaubenswende. Una svolta sta attraversando la fede cristiana. È inutile non volerlo vedere, guardiamola bene in faccia. Una svolta della quale non abbiamo da disperare, ma certamente che è esigente, ci porta a volere o non volare, no, volere o non volere, ci porta alla ricerca del nervo essenziale dell'essere cristiani, non semplicemente di certe formule o così via. E sfonda tante cose e porta in modo deciso verso l'essenza vitale.